beat it to our best. Get a good red world rise boom. Get the face, touch the ground with some weed, man. Need our piss, then we hit the piss. You wipe our face in manner and size. Falls up to what you gotta, wheel a flat. No, you don't stand. Go for it and go back. Try not to use any fight. Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E allora, una buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Interrompiamo questo momento così topico che c'è stato finora, che insomma c'è stato un momento dedicato a il fatto che il Mr. Moccia, il nostro Federico, è diventato sindaco. I miei compari di trasmissione non volevano che lo dicessi in trasmissione, perché la nostra trasmissione non c'entra niente e perché questa sera andiamo a parlare di cose veramente truci. Però insomma, secondo me era importante pure dire questa cosa. Vi vedo contrariati, però. Sì. Vabbè, dai, va bene. Vabbè, insomma, la trasmissione di oggi, visto che l'altra volta abbiamo parlato per la contingenza di Green Hill, visto che c'era stato il corteo il sabato precedente, questa settimana invece andiamo a parlare di vivisezione da un punto di vista scientifico. Insomma, ce ne abbiamo da dire un po' di cose. E poi vi anticipo già che la settimana prossima faremo un'altra puntata, sempre a tema la vivisezione, salvo sempre elementi di contingenza, che invece parleremo da un punto di vista più politico, economico, insomma, era altre ragioni. Poi adesso sentiamo un pochino pure che cosa avete da dire voi. Eh sì, si parla la vivisezione, è un tema abbastanza caldo, sull'onda di quello che è successo due sabati fa, il 28 aprile a Montichieri, quando nel corso di una manifestazione contro l'allevamento di Green Hill diverse decine di persone sono entrate o comunque sono rimaste subito fuori l'allevamento per coprire chi era entrato e hanno portato via diverse decine di cani. Che sono segregati lì dentro. Green Hill è un allevamento, come penso molti di voi sapranno, che alleva cani beagle destinati alla vivisezione, cioè che poi vengono venduti ai laboratori. Quanto avvenuto è ovviamente molto bello, se ne sente ancora molto parlare in giro, si vedono anche molte cose in giro, insomma, filmati, televisioni, media mainstream che se ne occupano, telegiornali, giornali e via dicendo. Si è discusso molto, soprattutto questa settimana, su una questione appunto cosiddetta della sicurezza, cioè diciamo forse c'è anche dovuto al fatto che questa è stata una cosa, un'iniziativa molto spontanea, nata sul momento. Si avverte in giro magari una certa leggerezza sulle norme di sicurezza seguite da molte persone, no? Se girate su Facebook si vede di tutto, foto, filmati di persone e via dicendo. Noi ci teniamo comunque sempre a ribadire che appunto liberare animali è una cosa importantissima, bella e fondamentale in una vera pratica di liberazione animale e una pratica antispecista. Però una volta liberati gli animali è fondamentale il passo successivo, altrettanto importante, è quello di pensare pensare alla propria sicurezza e alla sicurezza degli animali liberati. A questo proposito, noi vorremmo leggere adesso in radio un documento rilasciato da un gruppo di attivisti di Milano che si chiamano Nemesi Animale. Sono delle persone molto in gamba che stanno facendo un grosso lavoro di documentazione. Noi nella puntata degli allevamenti avevamo anche ricordato la loro investigazione su un allevamento di galline ovaiole, l'allevamento abruzzese. Comunque Nemesi Animale ha pubblicato sul proprio sito un testo che noi adesso vi vogliamo leggere, perché lo condividiamo dall'inizio alla fine, proprio dalla prima lettera all'ultima lettera. Sì, anche se poi in realtà ve ne leggeremo soltanto uno stralcio, perché il comunicato è abbastanza lungo, ma lo potete trovare sul sito. Se cercate Nemesi Animale lo trovate subito. Allora, appunto, entro proprio a gamba tesa sul comunicato. La bellezza assoluta del gesto compiuto da persone che si sono messe in gioco. Chiaramente, scusa, il gesto compiuto si riferisce appunto alla liberazione del 28 aprile a Green Hill. Sì, è un comunicato appunto in seguito a quello che è successo il 28 aprile. La bellezza assoluta del gesto compiuto da persone che si sono messe in gioco e hanno rischiato in prima persona non è in discussione. È necessario però riflettere e imparare dagli errori che molti hanno commesso. Forse per ingenuità, per inesperienza o purtroppo anche per esibizionismo, molti nel momento della presa dell'allevamento e del passaggio dei cani oltre la recinzione si sono intrattenuti davanti alle telecamere, si sono fatti fotografare, hanno indugiato molto anziché scappare per mettere in salvo gli animali. Su Facebook si parla troppo e si scrivono cose molto pericolose, per se stessi, per gli altri e soprattutto per quei cuccioli che non devono in alcun modo tornare nell'inferno da cui sono stati sottratti. Le indagini sul raid proseguono, la Digos sta acquisendo in queste ore tutti i filmati e le immagini scattate durante la liberazione dei Beagle, pubblicate sui giornali, trasmesse in televisione o postate sui siti internet. Non ci deve essere alcuno spazio per l'esaltazione personale, non ci deve essere alcun eroe. Gli eroi non esistono, per noi esistono solo persone spinte da reali sentimenti di empatia e di volontà di spezzare le catene. Siamo solo all'inizio, un giorno speriamo di vedere le stesse persone che prendono d'assalto un allevamento di maiali, di mucche, di conigli, di galline e di tutti gli altri reietti della terra. Un giorno avremo finalmente la nostra festa di liberazione antispecista. Nel frattempo dobbiamo costruire qualcosa di solido, ben radicato e chiaro. Ecco, condividiamo totalmente l'appello alla sicurezza e... è importantissimo liberare animali, ma appunto poi dopo attenzione, occhio, perché bisogna stare attenti sia per gli animali stessi liberati sia per la tutela personale di chi lo fa o delle persone che magari ospitano poi in stallo, diciamo, o si prendono cura di questi animali liberati da luoghi di tortura e di segregazione. Ecco, specialmente in rete non ci devono per esempio finire né, insomma, discorsi che possono essere compromettenti, né tantomeno, meno che mai, fotografie, specialmente se ci sono i volti delle persone oppure se si riesce a riconoscere in qualche modo, magari dai vestiti o altro, le persone. Quindi insomma, se ci sono anche delle foto è sempre meglio tenersele per sé. E poi insomma, sai, dei Facebook, chiudetelo, perché come è noto, avere Facebook, buttate il computer dalla finestra, insomma, se vi volete squedare andate in questura. Vabbè, io metto una canzone, eh. E allora questa sempre si chiama Cosa fai tu stasera, anche se noi l'abbiamo rinominata la settimana scorsa. Cosa facevi il 28? Cosa facevi il 28 aprile, sabato pomeriggio? Che dopo la canzone che metteremo, perché ci metteremo in contatto con un ragazzo, un attivista che è stato tra i fermati del 28 aprile, per appunto parlare un po' con lui e vedere cosa ci può dire. Va bene, questi sono gli Agitazione. Passa montagna, il mio amore è fuoco, benzina, sono gesti di cuore, boicottaggio, sabotaggio e azione diretta. Cosa fai tu stasera? Cosa fai tu stasera? Cosa fai tu stasera? Passa montagna, il mio amore, fuoco, benzina, sono gesti di cuore, sabotaggio e azione diretta. Cosa fai tu stasera? Ok, eccoci qua in collegamento con un attivista che è stato fermato il 28 aprile a Green Hill. Ciao, ci senti? Sì, ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Senti, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza, sensazioni, emozioni e via dicendo? Sì, va bene. Io, vabbè, non entro nel dettaglio di quello che è successo perché non ne posso parlare, quindi racconto giusto come dici tu, insomma, le sensazioni del dopo. Allora, noi, diciamo, io con le altre persone fermate siamo, diciamo, siamo stati fermati così per essere identificati, poi quella semplice identificazione si è trasformata in un arresto per un qualcosa che nemmeno noi conosciamo, diciamo, le motivazioni. E siamo stati, diciamo, trattati come dei delinquenti, e portati al commissariato dei carabinieri, tenuti per ore e ore in una stanzetta piccolissima, senza poter telefonare, senza poter nemmeno avere un po' d'acqua, e dopodiché verso mezzanotte siamo stati portati in carcere, e le femmine da una parte, i maschi dall'altra, e lì, insomma, ci sembrava di vivere una specie di sogno, di una sorta di realtà. Non ci siamo nemmeno resi conto di quello che stava succedendo. E chiaramente siamo stati ammanettati, tutto il tragitto ammanettato, una macchina per ognuno di noi. E a mezzanotte meno un minuto, per fortuna, siamo riusciti ad arrivare in questo carcere e diciamo, e rientrare, per fortuna, per dormire anziché per terra nella sede dei carabinieri. E all'ufficio matricole ci hanno assegnato subito una matricola che era un 600 e qualcosa, in un carcere che può contenere al massimo 200 persone, 250 persone. Noi attualmente eravamo il numero 600, quindi diciamo, un carcere strapieno. Infatti siamo finiti in una cella e per quattro persone ne eravamo sei. Per fortuna abbiamo ricevuto grande solidarietà dai nostri compagni di cella, che ci hanno subito aiutato a fare la brandina, a preparare il tutto, insomma, per passare la notte. E insomma, grazie a loro che siamo riusciti a stare in quel posto, che veramente è un posto invivibile. Secondo me non ci sono i presupposti per poterci stare nemmeno una giornata là dentro. E niente, questa è stata la nostra esperienza. Per fortuna, dopo 48 ore abbiamo avuto un processo rapido e siamo usciti fuori. E la sensazione che abbiamo avuto è di aver vissuto un po' come vivono i Beagle di Green Hill, in gabbie, senza alcun diritto, addirittura l'acqua bisognava comprarla, poi, siccome noi non avevamo soldi, non potevamo comprare l'acqua. L'acqua ci è stata offerta dalle persone del carcere, così come ci hanno offerto le mele, ci hanno offerto l'insalata, e niente, in quei giorni abbiamo chiacchierato un po' con queste persone, ci hanno chiesto ci hanno scritto una lettera un po' tutto il carcere, in cui riassumendo ci davano la loro solidarietà, e poi hanno voluto sapere un po' cos'è la cucina vegana, perché non mangiavamo carne, perché non mangiavamo pesce, latte, uova, tutte queste cose qua. E insomma, più o meno è questo diciamo, quello che mi viene da dire. E basta, poi se avete altre domande, posso rispondere a qualche domanda? Sì, diciamo che poi la lotta contro Green Hill non è, insomma, non è iniziata quel sabato e non si ferma quel sabato. Sappiamo che ci stanno anche degli appuntamenti nei prossimi giorni. Se non so se vuoi lanciare qualche data. Sì, domani c'è una, diciamo, una manifestazione in tutte le città d'Italia sulla per quel che è la Green Hill e la lotta alla vivisezione. E so che ci sono delle iniziative anche all'estero, un po' in tutta Europa, presso l'ambasciata italiana. E poi l'11 maggio c'è qui a Roma c'è un presidio fuori una ditta farmaceutica che si chiama Menarini, che è uno dei clienti di Green Hill. Noi ultimamente parliamo molto di cani, di Green Hill. In realtà per noi la vita di un cane vale quanto la vita di un topo o la vita di un rospo, di un coniglio. Per noi noi siamo molto importante sotto la vivisezione in generale, contro l'uso degli animali come trattare animali come fossero merci, come fossero oggetti, ma noi siamo anche contro chi tratta le vite umane come se fossero oggetti. Noi siamo antispecisti, siamo qualcosa al di là dell'amore verso un cane o verso un animale domestico, qualcosa di completamente diverso, antispecismo, diciamo. Certo, vabbè, naturalmente sì. Da questa trasmissione noi non possiamo che essere completamente d'accordo con te, e tra l'altro, insomma, no, riflettiamo sul fatto che è stata anche una cosa molto bella questa, tornando un po' indietro, questa forma di solidarietà che c'è stata tra i prigionieri, diciamo, del carcere, e voi che eravate entrati lì per questo motivo di Green Hill, insomma. Sì. Va bene, senti, sì. Se non hai nient'altro da aggiungere, noi naturalmente... Io rinnovo semplicemente l'invito per venerdì 11 a Pomezia, via di Tosperi numero 10, ai cancelli della Menarini. Va bene. Dalle 11 di mattina fino alle 17 del pomeriggio. Va bene, da questa radio naturalmente, specialmente da questa trasmissione, per quanto riguarda, insomma, la condizione tua come quella di altre persone che vengono così inquisite ingiustamente, come spesso lo Stato fa per questa ragione, hai tutta la nostra solidarietà e complicità in quello che è stato fatto, e naturalmente noi anche durante questa trasmissione rinnoveremo l'appuntamento per quel che sono i prossimi presidi, perché insomma poi la lotta contro la vivisezione, nemmeno quella contro Green Hill si ferma così, va avanti. Certo. Va bene, un bacione, dai. Grazie. Un abbraccio, ti ringraziamo della disponibilità. Buona serata. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata, ciao. Ciao. E allora, vabbè, un pezzo musicale e poi continuiamo. Every day I look inside. riprendiamo allora la nostra riflessione sul tema vivisezione, altrimenti chiamata sperimentazione animale. La vivisezione in realtà è una questione che può essere affrontata da tanti punti di vista. È innanzitutto un problema etico, ma è anche un problema scientifico, politico e economico. E adesso, rimandando a una puntata, la prossima puntata, una riflessione su un punto di vista più politico-economico, mi piacerebbe adesso dare alcuni dati per introdurre poi l'intervista che faremo ad un docente, professore universitario e biologo, il professor Gianni Tamino, che appunto analizzerà la problematica della vivisezione prettamente da un punto di vista scientifico. Ma intanto appunto mi piacerebbe spendere alcune parole. Innanzitutto per quanto riguarda il numero di animali sacrificati ogni anno per diversi fini, sempre legati alla vivisezione, ci troviamo intorno ai 500 milioni. Essi vengono utilizzati per la ricerca medica, per la didattica, per scopi bellici anche e per testare i prodotti chimici da immettere nell'ambiente. I test che appunto si effettuano sono test di ogni tipo, e alcuni dei quali sono anche inimmaginabili. Per esempio, cioè, quello che non ci immaginiamo è per esempio che anche la Nestlé, per testare la cioccolata come la Mars o la Nestlé, testano sugli animali per appunto dare, non so, in qualche modo dare dei dati sugli effetti dei loro prodotti. Quindi si testa quasi tutto, si testano i cibi, si testano i cosmetici, si testano i farmaci oltre che alcuni marchi che comunque non effettuano la sperimentazione, e che chi è interessato a saperli può visionare i siti delle associazioni antivisezioniste, che in genere riportano una lista dei prodotti cruelty free. Ma la vivisezione, come abbiamo detto, è un problema innanzitutto etico, perché appunto si sceglie l'animale per sottoporre la sperimentazione per fini umani, e quindi sempre una logica specista in cui l'animale viene visto come inferiore e quindi sacrificabile per supposti fini scientifici la maggior parte delle volte. Infatti la vivisezione è un problema scientifico, perché come affermano molti biologi, medici o quant'altro, veterinari, la vivisezione è scientificamente infondata, perché non è riproducibile ci troviamo di fronte comunque a dei test su animali che presentano caratteristiche biologiche, genetiche, fisiologiche, anatomiche diverse rispetto all'uomo. Oltre a questo bisogna anche considerare l'artificiosità anche dell'esperimento, perché gli animali vengono appunto tolti dal loro ambiente naturale e posti negli stabulari, e questa artificiosità induce ovviamente degli stress notevoli nell'animale, perché si trova come appunto se fosse in carcere, cioè anche, anzi peggio, si trova in questi stabulari sterili, non può avere una interazione, e la maggior parte appunto degli animali su cui si sperimenta sono animali invece sociali, come tutti gli animali tendenzialmente. E questa artificiosità dell'esperimento rende la risposta inadatta anche per la specie a cui appartiene l'animale su cui si sperimenta. A maggior ragione questi risultati non possono essere riportati all'uomo. Questa volontà di sperimentare sull'animale, oltre che appunto è un presupposto, deriva da una visione specista, rimanda a una visione meccanicista e riduzionista della vita e della natura, che deriva da Cartesio, come abbiamo già ripetuto in altre circostanze, in cui la vita, l'animale, l'uomo viene identificato con una macchina, e di questa macchina si vogliono indagare le minime reazioni senza considerare il complesso, quindi le interazioni sociali, ambientali e anche il lato psicologico. Inoltre, come abbiamo detto, è un problema politico-economico che come approfondiremo nella prossima puntata. Soltanto un dato per questo: la sperimentazione animale, come anche hanno affermato determinati personaggi della scienza critici rispetto alla sperimentazione animale, serve a predeterminare la risposta desiderata, in quanto si può scegliere la specie adatta per un determinato risultato, e quindi le aziende farmaceutiche possono in questo modo anche poi tutelarsi adducendo l'incertezza della prova dalle possibili cause del cittadino in seguito a effetti collaterali dei farmaci. Detto questo, appunto, mettiamo un attimo un altro pezzo, così ci colleghiamo con il professor Gianni Tamino, professore dell'Università di Padova, nonché presidente del comitato scientifico antivisezionista Equivita. Waitress, I'm a vegetarian. She turned to me like, here we go again. We have French fries, we have salad, we have mashed potatoes, and we have a special. Wheezy burger, Wheezy burger, Wheezy burger, Wheezy. Can I get a Wheezy burger? Whoa, whoa, whoa, whoa, Wheezy burger. Whoa, whoa, whoa, whoa, Wheezy burger. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Life as a vegetarian is a constant struggle. Gotta feed the hunger, stomach sounds like thunder. That chicken sandwich smells so good, but I ain't gonna give it, it'd be a blunder. Every meal is like trying to find a needle in a haystack, but I think about the animals and never look back. Make a peanut butter sandwich and throw it in my pack. It's not protein I lack. Wheezy burger, Wheezy burger, Wheezy burger, Wheezy. Can I get a Wheezy burger? Whoa, whoa, whoa, whoa, Wheezy burger. Whoa, whoa, whoa, whoa, Wheezy burger. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Ha ha ha! Presenting Edison's finest, the Oxley Heartbreaker. Ladies, give it up to Bungie! Are you coming at you from all different sides? I don't care about your burger, coke and fries. In my class, I'm the USMLE topper. My family goes to Grand Prix from Mumbai. Proper. Came to the States based on astrology. Did my fellowship in the field of proctology. I'm digging that guess, digging that guess. Bad that perception, no big is my ass. Some people say you can't beat the meat. I prefer to defer, put the word on the street. Roti, chawal, sabzi, dal. Ya to ore kharab gaya mera hal. I passed out with a batch of wicked brownies. So hold these nuts for my sandwich. La prima domanda è un po' quella... Anzi, buonasera, vista l'ora. La prima domanda è un po' quella fondamentale sul problema della vivisezione, cioè se la sperimentazione animale sia da considerarsi complessivamente, globalmente, un metodo scientifico, cioè predittivo e riproducibile. Ecco, questo è il punto di partenza, perché se studiare un animale è di per sé una cosa scientifica, come studiare l'uomo, quando invece io studio un animale per ricavarne dei dati che dovrebbero servire a capire come funziona un altro animale, questo non è più né scientifico né metodologicamente accettabile, proprio perché non è assolutamente riproducibile, cioè il risultato che ottengo su una specie non è riproducibile su un'altra specie, e il risultato che ottengo su una specie quindi non mi dà nessuna predittività rispetto a quello che succederà in altre specie. Addirittura specie molto vicine come i roditori, parliamo di ratti, topi, cavie, conigli, eccetera, danno risultati molto diversi usando lo stesso farmaco o lo stesso composto chimico tossico. Quindi in alcuni casi il composto è tossico, in alcuni casi poco tossico, in alcuni casi molto tossico, in alcuni casi innocuo. Dipende proprio dalla specie, anche quando si tratta di specie tra loro simili, o addirittura nel caso dei ratti possiamo ottenere risultati differenti all'interno di ceppi diversi della stessa specie. Un esempio di sostanze che sono risultate innocue sugli animali e poi tossiche per l'uomo? Molti conoscono il caso di provare se il fungo è velenoso su animali, eccetera. È un classico esempio che assolutamente non è valido, perché i funghi velenosi per l'uomo non lo sono per altri animali. La cicuta, che è velenosa per l'uomo, non è velenosa per molti uccelli o per alcuni animali. Quindi non c'è un dato in cui se noi potessimo dire questa cosa su questo animale si comporta in maniera sempre diversa dall'uomo, sarebbe già un risultato, ma invece non abbiamo una specie animale che è l'opposto dell'uomo o simile all'uomo, abbiamo che nella stessa specie composti diversi possono essere in alcuni casi simili a quanto succede all'uomo e in altri casi completamente diversi, e stessa cosa vale confrontando due specie simili. Ecco, nel caso per esempio della diossina, che è un composto che sappiamo tutti essere non solo molto grave dal punto di vista della sua pericolosità in termini di sviluppo di tumori, di danni al modo in cui si sviluppano le relazioni interne all'organismo durante lo sviluppo embrionale, ma che ha anche una sua tossicità diretta, cioè come veleno. Beh, per esempio, se noi andiamo a vedere la diossina usando un metodo di scarsissimo valore scientifico ma molto usato in vivisezione, che è la DL50, cioè la dose alla quale il 50% degli animali muore per effetto della tossicità della sostanza, troviamo che nel criceto arriviamo a dosi di DL50 che sono addirittura di 5 grammi chilo, mentre nel ratto ne bastano 20 milligrammi. Addirittura nel porcellino d'India basta 1 milligrammo per chilo, quindi tra 1 milligrammo del porcellino d'India e i 1.000-5.000 milligrammi per chilo di peso corporeo del criceto, qual è la posizione che vale per l'uomo? Beh, è impossibile estrapolare da questo, potrebbe essere uno o l'altro o un dato completamente diverso. Certo, e ci sono anche dei casi storici importanti, tra cui quello per esempio della penicillina, come quello dell'aspirina, in cui appunto se queste sostanze fossero state testate prima su alcune specie animali, forse sarebbero state scartate. Me lo conferma? Nel caso della penicillina è Flori che lo dice proprio in maniera molto chiara, e dice che per fortuna che non abbiamo usato le solite cavie, perché in questo caso avremmo dovuto scartarla la penicillina, mentre invece aver usato altri animali ha permesso di evitare. Ma non è che è il fatto di aver usato un altro animale quindi ha permesso di usare la penicillina, è stato un caso fortuito, e qui siamo come sempre nella situazione della casualità. Se prendo quell'animale per caso potrebbe avere un dato simile all'uomo o per caso averlo diverso. Quindi io posso per caso scartare farmaci utili o usare nell'uomo farmaci sbagliati. A questo punto ci può dire qual è la percentuale di corrispondenza tra gli esperimenti che sono riusciti sugli animali e che invece non hanno funzionato sull'uomo poi? Diciamo che dipende dal tipo di esperimento, dipende dal tipo di... per esempio, non so, se vado a vedere la corrispondenza tra due specie di roditori per quanto riguarda sostanze cancerogene, posso trovare una corrispondenza inferiore al 50% tra caso positivo in una specie e caso invece corrispondentemente positivo nell'altra, cioè vuol dire che più del 50% dei casi non c'è corrispondenza, ma tra specie animale e uomo dati di meta-analisi parlano di valori che si scostano poco dal 50% di corrispondenza. Ma teniamo presente che il 50%... Scusi, che cos'è la meta-analisi? Meta-analisi significa prendere in esame tutti gli studi su un certo argomento, analizzarli tutti insieme e fare una valutazione delle corrispondenze e dei risultati che possono essere ricavati da questo insieme di ricerche. Quindi una meta-analisi studia tutte le ricerche su quel dato argomento e va a vedere per esempio se i risultati sono coerenti tra laboratorio e laboratorio, se i risultati sono tra loro corrispondenti, e si va a vedere per esempio, non so, se si usano animali diversi, ceppi diversi, quali corrispondenze ci sono. Questo è stato fatto già nel 2004, pubblicato da Lancet, e i risultati è che queste meta-analisi mettono in luce non solo che spesso la sperimentazione sull'animale in laboratori diversi la stessa sperimentazione dà risultati diversi, perché gli animali non sono mai uguali, il laboratorio non è mai uguale, lo stabulario non è mai uguale. Ricordiamoci un dato, che gli animali prima di tutto reagiscono in rapporto alle condizioni di vita, quindi dipende da come sono trattati, quali sono le loro situazioni specifiche, ecco perché laboratori diversi danno risultati diversi. Ma detto questo, queste meta-analisi mettono in luce che più o meno la corrispondenza tra quello che si è tenuto sugli animali e quello che poi si è verificato essere realmente la situazione umana non si scosta molto del 50% di corrispondenza. Questo ho capito. Una domanda anche: quali sono gli ambiti della ricerca, chiamiamola scientifica, che prevedono l'utilizzo degli animali e quali sono gli esperimenti più comuni a cui le cavie da laboratorio vengono sottoposte? Allora, va chiarito che ci sono degli esperimenti sugli animali che sono pienamente legittimi. La medicina veterinaria non può far altro che studiare gli animali. Quello che è inammissibile anche in medicina veterinaria è che io studi il ratto per capire quello che succede nella mucca. Dovrò, se voglio conoscere quell'animale, studierò quell'animale. Qui va aggiunta una cosa, che in medicina veterinaria, quindi è del tutto legittimo e anche eticamente accettabile usare l'animale per conoscere cosa succede nell'animale, però eticamente dovrei usare tutte quelle cautele che normalmente uso quando faccio, ed è obbligatorio farlo, la sperimentazione sull'uomo. Quindi dovrei usare nei confronti degli animali in medicina veterinaria quegli accorgimenti che si usano nella sperimentazione sull'uomo in medicina umana. Detto questo, quindi abbiamo questo caso di medicina veterinaria in cui l'animale si usa e non si può certamente non usarlo, come non si può non usare l'uomo nella medicina umana. Abbiamo poi delle ricerche che sono di base, dove per esempio io posso anche usare batteri o cellule in cultura, in cui se il risultato è conoscere cosa succede in una cellula, posso usare tanti diversi sistemi e alcuni organismi sono anche unicellulari. In biologia la ricerca di base si può fare in molti modi, tra questi qualcuno usa gli animali, ma va sempre ricordato che quel risultato ottenuto su quell'animale vale solo per quella specie. Mi scusi se la interrompo, per quanto riguarda appunto, come dice, la medicina veterinaria, i metodi comunque che si possono usare per sperimentare sull'animale devono essere, possono essere benissimo metodi non invasivi che appunto certo. Utilizzano colture cellulari, non bisogna ricorrere per forza alle tecniche che vengono utilizzate Che comunque portano molta sofferenza per l'animale. Dipende, se io devo fare un'operazione a un animale userò l'anestesia, ma devo operarlo come l'uomo, non è che lo sostituisco con qualcos'altro. Se io devo operare al cuore un uomo, lo opero al cuore. Analogamente vale in medicina veterinaria, non c'è una questione di sostituzione, è una questione puramente di corretta anestesia, evitare il dolore come lo si fa nell'uomo. Ma quando la medicina veterinaria opera sugli animali, deve operare in funzione del benessere di quell'animale. Altra cosa è quando invece io vado a maltrattare un animale per ricavarne dei dati dove l'animale non ha nessun beneficio. Non so se... Sì, è molto chiaro. Ecco. E volevamo chiedere nello specifico poi quali sono i test più comuni dell'animale e quali sono appunto gli ambiti in cui vengono maggiormente utilizzati, non so, forse la tossicologia, ma non so quali altri, se ce li può allora, spiegare. Chiariamo ancora il discorso però di prima, perché non è finito. Gli animali si usano in tutta una serie di condizioni in cui o ha senso o non ha senso. Fare studi di comportamento animale ha senso farli ovviamente sull'animale, ma per esempio non ha senso farlo in un animale in laboratorio che è tenuto in una gabbia. Se io voglio capire il comportamento di un animale devo studiarlo, come fanno gli etologi seri, andando sul posto dove vivono e osservandoli da lontano, cercando di capire quello che succede in natura. Qualunque ricerca fatta in laboratorio determina sofferenza per il fatto di metterlo in gabbia, di sottrarlo alle sue normali condizioni di vita, determina sofferenza per l'animale e il risultato è del tutto opinabile perché non ho quel contesto in cui il comportamento è quello vero. Quindi anche lì c'è scientificità e liceità del comportamento di studiare l'animale nel suo ambiente naturale, a mio avviso non scientificità e anche illiceità, proprio perché è un maltrattamento dell'animale quando lo studio in gabbia o lo tiro fuori dalla gabbia solo per la sperimentazione. Quindi in generale va sempre visto attentamente quando l'obiettivo è conoscere l'animale, conoscere qualcosa che riguarda l'animale o intervenire per un beneficio che riguardi quella specie e quell'animale. Completamente diverso da questo tipo di ricerca sugli animali è ogni tipo di ricerca che voglia estrapolare un risultato ottenuto sull'animale per poi vedere, immaginare che questo possa avvenire ugualmente in un altro animale e in particolare ancora più grave se si vuole estrapolare questo risultato all'uomo. In questo caso non c'è appunto scientificità, la metodologia non è correttamente impostata, non c'è né predittività né possibilità quindi di avere qualcosa che abbia senso, per capirci. Certo. Se io mi scusi, stava dicendo... Sì, prego. Pronto, non sento... Sì, prego, continui, non volevo interromperla. Dunque, il discorso era quindi che se io ho una sequenza in cui vedo che ho delle corrispondenze, come ho detto prima, per esempio una volta su due, tra quello che ottengo sull'animale e quello che poi otterrò sull'uomo, sono portato a ritenere che c'è corrispondenza perché escludo i risultati negativi e mi tengo solo i positivi. E quindi penso che vi sia una utilità, come dicono i vivisettori. In realtà, analizzando sia i dati positivi sia i dati negativi, accorgendomi che sono vicino a un valore dell'ordine del 50%, mi trovo nella piena casualità, cioè nella condizione in cui mi trovo quando lancio una monetina per decidere se fare una cosa o un'altra. Allora io potrei dire: questo composto è tossico o non è tossico per l'uomo? Lancio la monetina e ottengo un risultato. La probabilità che corrisponda al risultato vero è la stessa probabilità che ho con il risultato della sperimentazione sull'animale. Certo, e un'altra domanda. Allora, la medicina attuale dichiara che senza la sperimentazione animale non avremmo avuto gli avanzamenti tipo l'allungamento della vita media, l'eliminazione delle malattie infettive, ma lei questi risultati sono dovuti alla sperimentazione animale oppure no, oppure è una falsità? Beh, non c'entra niente la sperimentazione animale. Primo, va chiarito una cosa, che tutto ciò che riguarda farmaci, terapie, interventi chirurgici, nessun risultato ottenuto sull'animale viene direttamente poi passato all'uomo, ma tutti i risultati ottenuti sull'animale per poter diventare pratica medica devono essere risperimentati su uomini sani in piccolo gruppo, su uomini malati in piccolo gruppo e poi estesi a un numero di pazienti adeguato. In realtà la sperimentazione sull'animale è soltanto un alibi per permettere di passare all'uomo che diventa la vera cavia. Ed è proprio in queste prime fasi obbligatorie di sperimentazione sull'uomo che io ho dei rischi. Perché se io all'uomo dico, quando fa da cavia, spesso pagate in varie parti del mondo, ci sono uomini che fanno come mestiere quello di sperimentare farmaci e vengono pagati per questo. A questi io posso dire: ho già provato sull'animale, non è successo niente, vai tranquillo. È un falso modo per tranquillizzarlo, è un alibi per fare la sperimentazione, tra l'altro poco valida dal punto di vista etico, perché non gli ho dato nessuna garanzia, di passare direttamente all'uomo, che spesso subisce danni e conseguenze anche irreparabili. Altro esempio è quando passo ai malati. Io posso dire, per esempio, ai familiari di un bambino: guardi, non ci sono cure significativamente utili per lui, ma c'è una nuova terapia che stiamo sperimentando sugli animali, ha dato risultati fantastici, le conviene accettare che proviamo questa cura anche su suo figlio. Beh, questo è un modo truffaldino di convincere i genitori a usare la sperimentazione di quel tipo di farmaco, di quella terapia, perché quanto ottenuto sull'animale non dà nessuna garanzia. Si pensi a tutti i vaccini e a tutte le terapie dei tumori che in questi ultimi anni sono state annunciate come risolutive e che periodicamente, dopo essere annunciate come risolutive, non hanno dato nessun risultato. Abbiamo ottenuto semplicemente che in molti casi abbiamo curato i topi, ma non abbiamo ottenuto nessun risultato utile per l'uomo. Lo scriveva nel 1988 Richard Klausner, direttore del National Cancer Institute, in questo modo: la storia della ricerca sul cancro è stata la storia di come abbiamo guarito di cancro i topi. Sono decenni che riusciamo a guarire il cancro dei topi, ma praticamente tutto questo non ha mai funzionato con gli umani. Ecco, a proposito di cancro, in particolare io so appunto, che mi sono informata in questo senso, che la maggior parte degli animali utilizzati per gli studi sul cancro sono animali transgenici. Che cosa ci può dire sugli animali transgenici? Beh, allora, anzitutto l'uso dell'animale transgenico va spiegato che cos'è. Vuol dire un animale al quale inserisco dei geni umani, pochi, 2, 3, 4, non di più, perché è difficile inserire questi geni, inserisco questi geni per, tra virgolette, umanizzare l'animale in modo che la risposta di questo animale sia più simile di quanto non lo sia normalmente rispetto alla specie umana. Ora, l'uso dell'animale transgenico anzitutto è una missione da parte degli sperimentatori che l'uso dell'animale non funziona, perché altrimenti non avrei bisogno di modificare geneticamente l'animale. Ma in realtà anche l'animale transgenico non funziona e non può funzionare, perché l'inserimento dei geni che viene fatto è un inserimento in parte casuale, in parte in grado, come spiegava Dulbecco, premio Nobel per la medicina, è in grado di modificare il funzionamento di molti altri geni, cioè i geni funzionano tra di loro come una rete, come la rete di Internet, come la rete dei neuroni, che vuol dire che ogni componente, quindi ogni singolo gene, può interagire con tutti gli altri geni, determina proprio questo meccanismo a rete. Quando inserisco dei geni estranei, che appartengono tra l'altro a specie diverse, tutta la rete ne viene alterata. E il risultato non è che ho una umanizzazione del topo, l'oncomouse, ma ho semplicemente un topo che funziona male, e i risultati che ottengono infatti sono del tutto inattendibili. Già anni fa, nel suo libro Biotecnologie, Giorgio Poli diceva: gli animali transgenici sono stati introdotti, non è così difficile farli, ma bisogna ammettere che fino adesso non sono serviti a niente. Senta, professore, a questo punto ci può dire quali sono le alternative alla sperimentazione animale? Allora, andrebbe subito detto che non ci sono alternative alla sperimentazione animale, perché essendo la sperimentazione animale un metodo sbagliato, non ci sono alternative a metodi sbagliati. Io devo trovare dei nuovi metodi che permettano di arrivare, come obbligatorio per legge, alla sperimentazione sull'uomo, oppure di nuovi metodi, questo uguale la parte di arrivare alla sperimentazione sull'uomo obbligatoria riguarda farmaci e terapie mediche, ma abbiamo l'altro settore, quello della tossicologia, cioè del gran numero di composti chimici in grado oggi di determinare gravi danni all'ambiente e alla salute umana, che devono essere sperimentati anche in funzione del pericolo per la salute umana. Bene, sia per garantire che la sperimentazione sull'uomo sia fatta in maniera adeguatamente corretta, sia per introdurre nell'ambiente composti chimici non pericolosi, l'unica via d'uscita è quella di provare su sistemi direttamente riconducibili alla specie umana. Quindi io posso usare molecole, cellule, tessuti, anche organi umani, per vedere cosa succede. Come faccio? Beh, bisogna ricordare che le cellule si possono estrarre da qualunque essere vivente, compreso l'uomo, senza grossi problemi. Posso fare un trapianto di cellule semplicemente prelevando del sangue, prelevando dei frammenti di pelle, ma poi ho tutti quanti i tessuti che vengono tolti durante normali operazioni chirurgiche. in pezzi di non solo di tessuto ma anche di organo che possono essere prelevati durante operazioni chirurgiche, oppure come si fa il trapianto di organi da morto a vivo, così io posso prelevare da cadavere qualora il morto in vita abbia dato la disponibilità in tal senso, prelevare organi per fare sperimentazione. Tutto questo mi permette di avere dei dati certi su cosa succede nell'uomo e mi permette quindi di sapere se il farmaco o il composto chimico avrà delle reazioni positive, negative, indesiderate, pericolose sulla specie umana. Naturalmente non c'è soltanto questo vantaggio, ma c'è anche un vantaggio temporale. Se io voglio per esempio studiare la cancerogenesi di una sostanza chimica o la tossicità di una sostanza chimica sui topi, ho bisogno di un numero elevatissimo di topi o di ratti che deve, con uno studio che deve andare avanti un paio d'anni. Oggi con i sistemi di tossicologia computerizzate, va ricordato che già dal 2007 negli Stati Uniti il National Cancer come Institute e l'equivalente del nostro Centro Nazionale delle Ricerche insieme con l'EPA, cioè l'Agenzia per la Protezione, per la Protezione dell'Ambiente che quindi ha come obiettivo l'analisi tossicologica di composti introdotti nell'ambiente, hanno da tempo introdotto, appunto dal 2007, il concetto di tossicologia per il XXI secolo. In questo tipo di materiali che sono stati pubblicati indicano l'uso appunto di sistemi senza l'animale, tipo cellule, tessuti e così via, ma in modo computerizzato. Cosa vuol dire? Ad esempio io posso prendere dei pozzetti di plastica, piccoli strutture di plastica con dei buchi, all'interno di questi buchi io posso mettere cellule umane e posso far cadere delle gocce di sostanza o di farmaco in questi pozzetti e in modo computerizzato, in brevissimo tempo, avere la risposta di quanto è successo in termini tossicologici. Oggi siamo arrivati, l'hanno pubblicato proprio nel dicembre dell'anno scorso negli Stati Uniti, a analizzare contemporaneamente 500 di questi pozzetti in cui mettendo cellule, molecole, frammenti di tessuto con dosi variabili di sostanza, miscele di sostanza, in pochissimo tempo io ho una varietà di risposte che mi permettono di valutare attentamente la tossicità del composto. Non solo, ma posso usare la tossicogenomica, cioè andare a vedere sempre in questi pozzetti, inserendo concentrazioni o miscele diverse di cellule, come rispondono i geni all'interno delle cellule umane di tessuti diversi rispetto alla stimolazione di quella sostanza. Tutto questo lo tengo. Ok, quindi detto ciò, quali sono i motivi per cui si continua a praticare la sperimentazione sugli animali? Beh, ci sono almeno due o tre ordini di motivi. Il primo può essere l'inerzia culturale. Chi ha imparato a lavorare in un certo modo tende a continuare a lavorare in quel modo e rifiuta che possa essere sbagliata anche di fronte all'evidenza. Cioè c'è una specie di ortodossia nel modo di portare avanti le ricerche, ho imparato in quel modo, vado avanti in quello. Questo è un'inerzia, diciamo, che ostacola l'evoluzione culturale, che oggi invece è ampiamente diffusa, perché basta leggere tutte le riviste scientifiche e si trova come è quest'altro modo di operare il futuro. Questo è un aspetto. È anche chiaro che collegato a questo aspetto ce n'è un altro, che grazie a questo modo tradizionale di fare ricerca, tra virgolette sbagliata, ma che viene fatta passare come ricerca, si possono continuare a fare pubblicazioni e fare carriera. Se l'obiettivo è questo, non importa che la ricerca sia valida o non valida, l'importante è pubblicare e fare carriera. Ecco, questo è un primo aspetto, ma non basta. C'è un altro aspetto molto più grave, che è quello per cui oggi le ricerche non vengono più finanziate dal settore pubblico, quasi sempre sono finanziate da settori privati con conflitti di interessi. Bene, l'uso dell'animale, anche se più costoso, permette di far dire ad una ricerca ciò che il committente, cioè chi paga, vuole sentirsi dire. Io lo dicevo già negli anni 70, sulla base di alcune esperienze che avevo avuto su composti chimici tossici, che dando un ceppo opportuno di una specie opportuna di animale, si poteva far precostituire il risultato usando proprio quel tipo di ceppo di animale. Ma questo era stato messo in evidenza anche da altri autori, in particolare era stato messo in evidenza quando si è visto che per studiare la cancerogenicità del fumo di sigaretta, sia le industrie delle sigarette, sia i medici che avevano visto che erano pericolosi, avevano usato animali, e usando animali diversi, ceppi diversi di animali, si era arrivati alla conclusione che il fumo di sigaretta era cancerogeno e dall'altra parte che non lo era. Cioè io posso sempre far dire a un ceppo quello di animale quello che voglio, e questo è il problema, cioè un'industria che vuole mettere in commercio dei prodotti ha tutto l'interesse di poterlo fare usando metodi truffaldini per far precostituire il risultato. Senta, allora, per concludere, diciamo, questa lunga intervista, è uscita ora questa campagna che stanno facendo i vivi settori, tra l'altro una cosa abbastanza squallida, insomma, ci stanno sopra tutti i cliché che ci si possono mettere per avere una campagna di successo in questo tipo, quindi certo. Il topolino che è un topolino bianco, il manifesto molto candido, la bambina bionda, per giunta bianca, eccetera eccetera. Non so se lei ci vuole fare un commento su questa cosa, se ci vuole spiegare per quale motivo è uscita fuori proprio in questo momento una campagna a favore della vivisezione. Ma è evidente che sempre più nell'opinione pubblica e nel mondo scientifico che la vivisezione sia inutile è diventato chiaro, e questo quindi comporta da parte di chi vuole continuare in questa pratica sbagliata una controffensiva rispetto alla consapevolezza che c'è in atto un tentativo di cambiare politica della ricerca, e questa controffensiva è finanziata soprattutto da quelle lobby che vogliono continuare a predeterminare i risultati. Con i soldi a disposizione di queste lobby è stata fatta questa campagna su giornali, riviste e così via, che però a mio avviso non solo è squallida, ma è anche poco efficace, perché ormai non ci crede più nessuno che il topo serve a salvare i bambini. Come spiegavo prima, sono decenni che si dice grazie alla sperimentazione sugli animali abbiamo sconfitto il cancro, ma non è affatto vero. Grazie alla sperimentazione sugli animali saremo in grado di garantire la soluzione di malattie come l'AIDS, eccetera, eccetera. In realtà la sperimentazione sull'animale non ha mai mantenuto le promesse, e questo è sempre più consapevolezza comune. Dall'altra parte c'è proprio l'arroganza di chi falsifica i dati, appunto, ignorando che qualunque sperimentazione di farmaci fatti sull'animale dovrà essere rifatto sull'uomo, oppure non fatto perché l'animale ha messo in evidenza una tossicità, ma proprio quella tossicità potrebbe non esserci per esempio nell'uomo, ricordiamo il caso di cui abbiamo detto della penicillina, ma lì si dice che gli antibiotici e tutti i medicinali che salvano la vita sono stati scoperti grazie agli animali. Falso. Grazie agli animali si sono visti dei risultati che solo quando confermati dalla sperimentazione sull'uomo hanno avuto corrispondenza sono andati avanti, ma tutti i casi in cui non c'è stata corrispondenza o hanno eliminato farmaci utili o hanno favorito farmaci pericolosi, e di fatto questo non viene mai detto. Ecco, il famoso discorso dell'aleatorietà di questa ricerca, per cui la probabilità di corrispondenza simile al lancio della monetina, viene trascurato e si mette in evidenza solo le coincidenze che sono del tutto fortuite e casuali. La ringraziamo molto di questo suo contributo che ci ha dato appunto un apporto scientifico alla discussione sulla vivisezione, e niente, le auguriamo un bocca al lupo per tutto. Altrettanto ovviamente per tutti i cittadini, soprattutto perché se non sconfiggiamo questa logica ne va di mezzo la salute. salute di tutti noi. Esatto, insomma, oltre che la salute degli animali, è chiaramente anche, no, come dire, la sperimentazione animale è una vera e propria truffa a danno delle persone. La ringraziamo del contributo e grazie soprattutto per l'orario che ci ha aspettato fino a questo orario e buona serata. Buona serata a tutti voi. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Fat and docile, big and dumb. They look so stupid, they aren't much fun. Cows aren't fun. They eat to grow, grow to die, die to be ate at the hamburger fry. Cows well done. Nobody thunk it, nobody knew. No one imagined the great cow guru. Cows are one. He hid in the forest, read books with great zeal. He loved Che Guevara, a revolutionary veal. Cows say tongue. He spoke about justice, but nobody stirred. He felt like an outcast, alone in the herd. Cow doll drums. He moved, we must fight, escape or we'll die. Cows gathered around, cause the stakes were so high. Bad cow pun. But then he was captured, stuffed into a crate, loaded onto a truck where he rode to his fate. Cows are bummed. He was a scrawny calf who looked rather woozy. No one suspected he was packing an Uzi. Cows with guns. They came with a needle to stick in his thigh. He kicked for the groin, he pissed in their eye. Cow well hung. Knocked over a tractor and ran for the door. 6 gallons of gas flowed out on the floor. Run, cows, run. He picked up a bullhorn and jumped up on the hay. We are free roving bovines. Allora ricordiamo gli appuntamenti contro la vivisezione, perché appunto la lotta contro Green Hill e contro la vivisezione non si arresta, come dicevamo anche prima. Domani in varie città italiane, non solo, in città di tutto il mondo ci saranno presidi contro Green Hill. A Roma alle ore 17 a Piazza della Rotonda, oltre che appunto a Brescia, Milano, Bologna, Parma. Nel mondo, ricordiamo, dovunque, da New York, Amsterdam, Parigi, Montpellier, Marsiglia. E diciamo, l'occasione di domani di questo presidio è perché dopodomani si discuterà al Senato l'emendamento cosiddetto Brambilla per, diciamo, supposto miglioramento alle condizioni degli animali o comunque alla legislazione sulla vivisezione. Questo emendamento è in realtà reali cambiamenti non li, anche se passerà, non li apporterà, e sicuramente a noi in particolare non ci interessa discutere sui miglioramenti che tra parentesi sono oltretutto improntati su una visione specista, perché poi si parla di chiudere Green Hill o piuttosto di vietare la sperimentazione su alcune specie animali. Non ci interessa questo, ma ci interessa continuare la lotta contro la vivisezione, e quindi per questo vogliamo ricordare questo appuntamento. Ogni momento appunto è buono per manifestare questa opposizione. Oltre a questo, come ci ricordava il ragazzo di prima, abbiamo il presidio venerdì 11, ore 11 a Pomezia contro Menarini, a via Tito Speri 10, tra cui si sono anche organizzando degli autobus che appunto giungono direttamente al presidio. Potete trovare informazioni, adesso non so in quale sito precisamente, ma se, adesso non posso citare un sito. Stai leggendo Punk for Free? Sì. Ah, ok. E Punk for Free, io sto leggendo però. Che si scrive Punk 4 Free. Invece, per quanto riguarda il presidio del lotto, potete trovare aggiornamenti sul sito di Fermare Green Hill. l'altro appuntamento? Sì, poi abbiamo così continuiamo a seguire quella che è la lotta contro il mega macello di Manerbio. E intanto, vabbè, al di là del segnarvi l'appuntamento che è per sabato 12 maggio, c'è cioè appunto questo corteo antispecista per le vittime dell'industria alimentare contro il mega macello, concentramento alle ore 15 di fronte al casello autostradale di Manerbio in provincia di Brescia, autostrada A21 Torino PC, credo che sia Piacenza. Piacenza, ci ha azzeccato. Poi insomma sul sito in realtà del il blog del coordinamento contro il mega macello potete trovare anche qualcos'altro, potete trovare un'investigazione che sono così che è arrivata sul sito, che è stata un'investigazione che parla riporta le immagini di diverse investigazioni risalenti ai primi mesi del 2012 nella bassa bresciana, diciamo è un'introduzione a quella che potrebbe essere il mega macello di Manerbio. È un'investigazione su allevamenti di maiali vicino a Manerbio, che documenta le condizioni di vita di quegli animali che poi appunto finiranno nel mega mattatoio se dovesse essere costruito. Tra l'altro i ragazzi del coordinamento sono stati i nostri ospiti in trasmissione, mi sembra due settimane fa, no? Due puntate fa ci hanno parlato della loro lotta contro questo campo di sterminio. Risentiremo pure. Sì, certo, risentiremo assolutamente. E vabbè, credo che... Sì, cioè, noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà a degli attivisti che sono stati picchiati di fronte al Circo delle Stelle a Boario Terme, sempre in provincia di Brescia, adesso è una zona un po' particolare. Una zona calda. Una zona calda, sì. Green Hill, il mattatoio e via dicendo. E sono stati picchiati dagli stessi circensi. Leggiamo il comunicato espresso, il comunicato girato in internet, e esprimiamo loro la nostra totale solidarietà. Nel pomeriggio di martedì 1 maggio è avvenuta l'aggressione ad opera degli artisti, tra virgolette artisti, del Circo delle Stelle a Boario Terme, Brescia, durante un presidio pacifico contro l'utilizzo di animali negli spettacoli. Tre animalisti, tra cui una ragazza, sono stati picchiati selvaggiamente, presi a calci anche a terra da 9 energumeni del circo in questione, che nel contempo sbraitavano insulti come froci di merda. La Digos, così come i carabinieri, non sono intervenuti nel corso dell'aggressione, costituendo un velo di mortà intorno alla violenza squadrista di questi sfruttatori di animali. Le condizioni fisiche dei compagni e delle compagne antispeciste che hanno subito il pestaggio da parte dei circensi sono peggiorate. Alessandro non riesce a dormire né a camminare dai dolori ed è dovuto tornare in ospedale, mentre Silvia è stata denunciata dai circensi stessi per ingiuria, per averli insultati mentre questi la riempivano di botte. Ecco, possiamo notare il comportamento ricorrente in questo caso dei circensi, ma molto spesso degli sfruttatori di animali, che sono appunto improntati al sessismo con insulti come froci di merda e comunque in generale alla violenza. Che dare qualche riferimento bibliografico. Abbiamo affrontato la tematica di sezione soprattutto da un punto di vista scientifico, quindi ci sembra opportuno dare dei riferimenti appunto in questo senso di medici o biologi, comunque scienziati che si espongono contro la sezione. Ricordiamo innanzitutto a questo punto il professor Gianni Tamino con il suo libro Cancro un male evitabile, il dottor Stefano Cagno, Gli animali alla ricerca, e Pietro Croce, anatopopatologo che in primo periodo della sua carriera appunto effettuò vivisezione, dopodiché si oppose fortemente alla stessa e scrisse appunto questo libro Vivisezione a Scienza, oltre a appunto fondare e essere presidente del comitato scientifico Equivita o comunque di altre associazioni essersi mosso sempre del campo antivisezionista. E ricordiamo i nostri contatti? Sì, allora ricordiamo il blog che è radiopossum.noblogs.org e il nostro contatto per scriverci delle informazioni che è lagazzaladra@inventati.org. E insomma, visto che viene la gente a rompere le scatole a facce con le manine, chiudete prima. Una caccia via. Oggi se volete caccia via, noi non se ne andiamo. Speriamo che appunto l'ora non è stata troppo tarda per parlare di alcune cose. cose, questa tematica prettamente scientifica, però è stato molto bello affrontare questa tematica anche con il contributo dei vari nostri ospiti, del professor Tamino, sia di attivisti del, che di professori, che comunque ha dato il suo contributo. Va bene, allora un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, specialmente insomma agli animali non umani, alla quale insomma diciamo buona parte di questa trasmissione è dedicata. Ciao, ci vediamo tra una settimana, ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti.